Se tutte le volte che, nascondendoti il sorriso tra le labbra, ti rinchiudi un po', mi escludi suscettibilmente, levi gli occhi al cielo, che quel mondo un po' indeciso non va nel verso giusto per te. Ti sussurro cose che già sai, so che non ti stancheranno mai, lo so, non c'entro io, è solo che ti vorrei felice. Se ti capita di avere freddo, tu corri nel mio letto per riscaldarti, sai, non è mai tardi. Ma non vale se ti tieni il resto nascosto nel tuo gesto, quando sai fingere di non amarmi. E se non vuoi più piangere, ti venderò un sorriso parlandoti di te. Se ti sembra che sei schiacciato, o meglio ancora soffocata dalle condizioni avverse, che non per tua colpa hai visto, se ti sembra che di nuovo non sei in grado, ti dici sono stupida. Speranza o fantasia sembra a tutti gli altri una follia, se persino io talvolta ne parlerò. Se ti senti sola e se ti capita di avere freddo, tu corri nel mio letto per riscaldarti, sai, non è mai tardi. Ma non vale se ti tieni il resto nascosto nel tuo gesto, quando sai fingere di non amarmi. E se non vuoi più piangere, ti venderò un sorriso parlandoti di te. E mi pagherai con quel sorriso al viso che illuminerai, ti giuro non lo scorderò mai. E sorriderai davvero, non permetterà a nessuno di capirti, perché tu sei perfettamente. Stringimi forte, fammi sentire che per te non ci fermerà mai niente. Se ti capita di avere freddo, tu corri nel mio letto per riscaldarti, sai, non è mai tardi. Ma non vale se ti tieni il resto nascosto.